siamo da soli, tu e io. Sopra il ghiaccio, dammi calore. Prendo la penna e un foglio, devo assolutamente parlarti. Sono le tre di notte, sono fuggito. Il mio corpo è pieno di lividi, il mio corpo è pieno di lividi. Difficile è la situazione, non arrabbiarti con me. Ci controllano sempre. Non possiamo cambiare il mondo, non possiamo cambiare il mondo. Io amo la luce, io amo la luce. Una rivolta digitale, immagini e caos. Nella mia testa, solo nella mia testa. Una rivolta digitale, immagini scorrono nella mia testa, solo nella mia testa. Mi manchi davvero, la noia è noia. Sono le tre di notte, sono fuggito. Il mio corpo è pieno di lividi, la testa che fa male. Una rivolta digitale, una rivolta digitale. Immagini e caos nella mia testa. Il mio corpo è pieno di lividi, non arrabbiarti con me. Devo assolutamente parlarti. La libertà ci chiama, la libertà ci chiama, la libertà ci chiama, la libertà ci chiama. Ascolta il suono dietro di me. La libertà ci chiama, la libertà ci chiama. Semplice poesia, semplice poesia, semplice poesia, semplice poesia. La libertà ci chiama, la libertà ci chiama. La libertà ci chiama, la libertà ci chiama. La libertà ci chiama, la libertà ci chiama.